Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! È il 1842. Si fidanza Vittorio Emanuele e i Savoia concedono l'amnistia anche per reati politici. Diritti umani, nuova svolta in Gran Bretagna, proibito il lavoro in miniera dei bambini. Esplode un talento musicale, Giuseppe Verdi, con la sua opera Nabucodonosor. Una buona giornata da Simone Spezia, dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura andiamo nel Regno di Sardegna, in occasione del fidanzamento del figlio Vittorio Emanuele con Maria Adelaide d'Asburgo Lorena. Il re Savoia Carlo Alberto ha proclamato un'amnistia generale che riguarderà anche i responsabili di reati politici e i protagonisti dei tentativi rivoluzionari del 20-21. Non vanno in questo modo le cose nel Regno delle Due Sicilie, dove per l'insurrezione fallita dell'anno scorso all'Aquila ci sono state le condanne, delle decine di arrestati, per molti è stata prevista una pena detentiva, ma 8 di loro saranno giustiziati. E restiamo nella penisola, ma andiamo a Milano per il nuovo successo musicale di Giuseppe Verdi, nel quale molti leggono una nota politica. Il va pensiero lo canticchiano tutti, quasi fosse un'aria, una romanza, e invece è un coro tragico, un coro con cui il popolo ebraico lamenta il suo duro destino. La vicenda biblica raccontata dal libretto di Temistocle Solera e musicata da Giuseppe Verdi, giovane compositore di Busseto, appassiona Milano. Verdi è diventato, nel breve volgere d'un anno, un idolo. Gli uomini sfoggiano per strada cappelli e cravatte alla Verdi, il maestro, barbuto e piacente, è sulla bocca di tutte le signore, il coro del Nabucco, così i milanesi hanno soprannominato l'opera accorciando, come sul manifesto, il lungo nome originale Nabucodonosor, è ormai un inno. Il motivo è politico. È facile per i molti di idee liberali o comunque anti-austriache ritrovare nella vicenda dei giudei in cattività la condizione degli italiani, dei lombardi. La polizia ovviamente apprezza poco, ma il melodramma, si sa, in Italia è sacro e anche gli austriaci ne hanno rispetto. La prima, il 9 marzo, è stata un trionfo. Giorgio Ronconi, Nabucco, è stato perfetto. Giuseppina Strepponi, Abigail, se l'è cavata bene nei brani drammatici, un po' meno nelle arie di agilità di cui questa parte è ricca. In ogni caso, il compositore è stato osannato e in autunno ci sono state 47 repliche applauditissime. Per Verdi, vedovo dopo aver perduto la giovane moglie e i figli piccoli per una malattia, è la prima gioia dopo tanti dolori. Si parla già di una nuova opera per l'anno prossimo, che parlerà, si dice, dei Lombardi alla prima crociata. Paolo Piacenza è il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Nuova svolta sui diritti umani e dei bambini, in particolare dalla Gran Bretagna. Qualche anno fa era stata approvata una legge che limitava fortemente il lavoro minorile in fabbrica. Ora il Parlamento ha dato il via libera al cosiddetto Mines Act. Nessuno di età inferiore ai 10 anni potrà d'ora in poi lavorare in miniera. La decisione è stata presa dopo che una commissione apposita ha studiato il fenomeno e fatto pubblicare delle litografie sui fatti che hanno molto colpito l'opinione pubblica. È tutto, sul nostro sito potete anche scaricare come sempre il nostro foglio quotidiano, visitate il blog, scriveteci a gazzettino@radio24.it. Il 12 maggio saremo al Salone Internazionale del Libro di Torino con una puntata speciale, previsto pubblico. Vi aspettiamo, se vorrete venire il 12 e l'orario è lievemente cambiato, saremo alle 13 nel padiglione numero 2. Dettagli e informazioni anche sulla nostra pagina Facebook. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione e l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.